gufo! Non mi taci! Un controllo. Ciao marito, dormito, sì. Ciao marito, dormito, sì. Gufo. Attento, gufo. Attento, gufo, dormita, sì. Va qua, chi va là? Chi è? Chi è? Il più forte, il più forte. Non ti sento. Mi senti? Non ti sento, chi sei? Sei messo male, spostati. Guarda adesso se mi ascolti. Prova, ma chi? In campagna? No, a casa col gommino, sono. Siccome l'altra sei tutta inceppata. L'altra è inceppata. Ti sento malissimo, un bel di QRM, ma sei in campagna. A casa, aspetta che cambio antenna. Dove sei? A casa, Casa, Grazia, aspetta che cambio antenna. No, adesso ti ho sentito bene. Ti ho sentito bene adesso. Ciao, Gemma. Buonasera, buonasera anche a Bacchiglia. Subito attacco la 23. E via, oggi non ha gara, Cos'è, Grazia? Dopo metto la 27. Oh, ammettatene sì. No, ma stavo guardando la TV, la pure a Bunidanzura, ma stavo guardando un programma. Ah, ma mi ha stufato. Ah. Ehi, ehi. Bene, vera. E andateci a butta. Audi. A votare. Eia, da stamattina. E anche io, stamattina. Ehi, certo. E no, che faccio? Per un mugliaiato, andate nel torrente ancora. Fino a mezzanotte mi devi portare, no? Oh, non te lo so dire, ma mi pare pensato male a manzano, alle 7, boh. No, pensare dei scanuti, boh. Ah, pensare dei scanuti. Ehi, io sono andato stamattina verso le 10:30, so che tra 10 non verrà nessuno. Ehi, buonasera a tutti e due, mi avete ascoltati. No, io non mi sono andato, non vado. No, devi andare, Bacchi, se no che cittadino italiano sì. Italiano che se ne fregano di noi, io me ne frego di loro. Ma conviene sempre dare un tuo voto, un tuo parere, una preferenza. Difido come freddo, ma chi vora? Lo chiedo io, c'è un marito, è freddo. Oh, non saranno, la giubilata di stamani è freddo. E allora, si fa di più calcio di abbattemo. A mezza volta andremo noi. Via Solari. Sono stati minuti, anzi, te ne pigliami. Vabbè, però conviene sempre farlo il voto. Io ho sempre votato. Anche io ho sempre votato. Domani mi dai una scheda, mi dai 50 anni. No, io l'ho rifatta nuova l'altro giorno. Io sempre voto, cosa me ne ha fatti da voi? Tanto comanda niente, però il voto mio glielo do. Io ho dato a Gio Maria, ho votato a Gio Maria, ho votato. E io sono andato stamattina alle 9:30. Ho fatto dove ferma per un freddo, oia. E ventare dov'era? Cazzo, non che la faccia al film. Cazzo. Ma però adesso ha calmato, è meno male. Già nessuno. Mi sono convulso, non c'è un botto, la cuffietta, so che andate tornato, ma... Tu cosa, tu sei andato alle cure, ma te sei devi andare tutti, dai. Alle scuole, vicino da te. Vicino a... al Giardinetti, su, a Via Solari, là, vicino... Oh, ai giardini che ci sono alla Madonnina. La Madonnina? Non sei andato qui dall'altra volta, ci sono a noi. No, io vado sempre in via Solari, c'è scritto così e devo andare lì, stanza numero 22. Ho capito, lì su ti hanno assegnato a te. No, no, io so che non che vicino, alla numero 10, no, no, no, l'elementare solo. È che si coso Chiefi, campagna Chiefi. Perché tu fai parte del latte dolce? Io faccio parte di Santa Maria di Pisa, dunque devo salire in via Solari. Alle scuole che ci sono lì. Capito. E Gio Maria latte dolce, o anche lì Gio Maria, no, latte dolce Gio Maria dove essere. E l'altra davanti a casa, a queste scuole qua, davanti a casa, e due passi. Ah, quello lì tu sì, hai fatto molta strada, 50 metri. E 10 minuti andate e tornate, c'erano tre persone solo e basta. E anche più freddo non manda nessuno. Oh, stiamo meglio in casa. Ma è così, grazie a. Ah, oh, già ce ne va gente, andando a saluti, avvinnando, già ce n'è la gente andando e tornando. Oh, quando si arrivi tu ero un secondo. Però ho fatto uscendo io entrandone altre 6 o 7 persone. Io quando sono andato, quest'anno non sono andato ancora. Sempre ho trovato una o due persone nella scuola elementare che c'è qua vicino. E siccome è l'ultima sezione, sono al numero 58 io, ma poi mai nessuno in quel luogo. Gio Maria, attacco la 27. E dammi 10 minuti che devo entrare dentro e preparare tutto, dai. D'accordo. Che lo sei, 27 sì. Io ho 27, ma chi, dai. 27. Grazie a Gufo Tristo. Luca, sulla 27 siamo. Guarda a vedere se esce bene. Bene, sta uscendo. Sì che sta uscendo bene, mi senti? A voglia se ti sento. Cazzo, se non ti intendo io, cara che ti intendi. Da chi si spara di quella bazzetta, le sei tutti frugenni. È vero. Me lo stavo guardando adesso, era per dirtelo. Cosa sollevo? La barra troppo forte. Sta a fotoscala, sei tu. Allora già funziona bene questo qua. Funziona bene ancora. E questo quasi quasi un bel di voce me lo uso in macchina. E va bene, a fondo scala. E la radio è buonissima, buona, perfetta, boh. È vero. Luca, buona era la pasta con gli asparagi. No, li ho preparati per domani, capito? Così domani quando rientra a pranzo, insomma di verso mezzogiorno e mezza metto la panna. E poi faccio la pasta. No, sono tutti buoni, buoni, cottura giusta, sale giusto, sono perfetti. Accenditi la 27. Oh, grazie, devo piazzare tutto, domani lo piazzo. Ne ho smontato tutto perché c'era la figlia di Marina in cameretta, capito? Mica potevo lasciare il baracchino. Domani piazzo tutto. E mettilo volante, provvisione. Quando devo fare a parte? No, che non devo bucare la 30 armadio, non ho giugana, va, mi devo fare anche la doccia e tutto, dai. Già sono qua in questa frequenza, se volete rimanere anche qua, adesso ho pazienza, no, già non si muri. E io acceso questo per farlo funzionare un po', la 27. Va bene, adesso sono qua, dai, in caso chiamo qua. Tanto io tra un po' andrò a casa, magari parlo da casa, boh. Ok. Vedi adesso, vedi. Ma chi c'ho? Ehi, mi senti? Sei normale, sì. Che basso, da me stai arrivando benissimo. Ma si accendono due luci però, sia la ricezione che la trasmissione. Vuol dire c'è qualche contatto, c'è. C'è qualche contatto. Prova a togliere lo spinotto del microfono e tornarlo a mettere. Ehi, l'ho fatto già, cambiate anche il microfono. Ho cambiato anche il microfono, nulla da fare. Tutto, infatti, adesso le luci sono normali, rossa e verde si è accesa. La ricezione com'è? È abbastanza buona, si affondò scala. La radio è perfetta. Se avvicini il microfono quasi vicino alla bocca. A me mi sta arrivando benissimo. Non so, Gian Maria, come ti mi ascolti, Gian Maria? Guarda, basta, la radio è bassa, quattro di segnali segge, e basta, ma chi ci arriva? Ma Tore mi arriva a fondo scala, per cui arriva fortissimo Tore, però ti sei basso come radio. Vediamo un po' Graziano. Ehi, Tore arriva una bomba, tu c'è una bomba, lui lo sento, però non è forte, per essere così vicino. Tra Tore e lui, come distanza all'incirca, sono uguali a arrivare qua a casa. È strano che lui arriva più basso, quando mi sarebbe dovuto arrivare come Tore. Maria, insomma, cosa del menù, l'alto, cosa c'è scritto per essere al massimo? Niente di strano che tu sei più coperto, boh. Basta, Bacchi, basta, veramente basta. Ecco, strano che a ti arrivi, vabbè, in linea d'aria senti vicinissimi voi due, forse per quello ti arriva a fondo scala. Però a radio non me lo dire che è forte, no? A me arriva benissimo la radio, caspita, a me io lo sento benissimo. Ma un passaggio qua, Bacchi. La d'aria ce l'hai proprio di fronte tu e sei libero. Oh, a parte quei palazzi tuoi che c'hai lì, e da me ci sono i palazzi dove abita Luca e Bummi, dove c'è Luca, mi copre. Senza quei palazzi che arrivi a più bene, non te lo so dire. Vediamo come arriva da me, ma chi fa un passaggio? Ehi, buonasera Luca. E vedi un po' adesso come sto arrivando, solo che c'è un difetto, si accende la luce di trasmissione e quella di ricezione. Capio? Allora, la radio non è forte, però ti ascolto benissimo. Ma non è questa grande radio come c'è la Graziano, come c'è la Radio Maria. Segnale a fondo scala. Sì, ma la radio, quello è importante, la radio, capio? Vediamo un po' solo se mi sa dire cos'era il menù, nel menù la parola più alta. Qual è la tua? Avvicinate il microfono di più, Bacchi. Sì, ce l'ho quasi in bocca, me lo sto mangiando. E così vai benissimo. Così vai benissimo. Ma il costo della potenza è sul menù, cos'era il massimo? Allora, HIGK. HGK, aspetta che ci vado, adesso sei veloce andare. Capito mi hai, brappi! Sei pulsato DJ, grazie! Perché? Ma che tendevo in mezzo alle onde! Non mi senti bene! Adesso sì, ma poco fa ti sentivo in mezzo alle onde! A chi va il vento oggi? Ma dentro casa vento non venne! Ma ci sono il tornado! Parasucchio, cattau, non sei più di una, vero Gian Marì? Eia, catta, vero Lubenze, bloccava la radio, to. Guarda adesso, Tore. Sempre lo stesso, L'hai messo dove ti ho detto io? Andate dall'apparecchio, ecco perché ti sentiva più basso. Ehi, dove mi hai detto tu sono andato? Allora è a posto, adesso vai benissimo, lasciare così. Che cosa? Adesso ho spento anche la luce rossa. Dunque, quando trasmette accende la rossa, quando ricevo si vede la verde. È diventato normale. Hai visto allora se pulsa a pulsa, vuoi adducato, vuoi. Forse è giunta la gana di vomità. ma se pulsa a pulsa, visto dai. Meglio così. No, via di Sicilia, poi si tira un puntinaccio. Andò bene. Già sei migliorato, da. Già sei muto. Sei muto, mia grazia. E allora, si vedo che rubiante in campagna si lo fa di davaro. Io con Cimaglia lo pongo. Eia. Allora, signor Tore, buttato a lì. Buttato agio. Eppure vedo un tipo vicino a me, ha detto, boh, mi pare Tore, mi pare. Ero mezzo convinto. Chi l'ha domandato a mia moglie, ma Tore ti pare questo? E mi ha detto, no, che non è Tore, non lo vedi che sei più vecchio. Cosa mi sei biglietti? Ma faccio mi sei biglietti? Catta! Anta è nato su, ma chi? Il Graziano, ma faccio da pigliato, proprio. Allora è un sogia o fai un gemello? Andiamo, andiamo. Non lo so, però informati, diglielo tu, Giammari. Ma io ce l'ho detto io. Ma sono tornata ancora, no, Rugli Ueda. Luca, la banda, la coccia ti stai. Andiamo a mangiare tutti da Luca che ha fatto gli asparagi con la pancetta. Con la pancetta, senza pancetta. Aspetta, se Gian Maria c'è. Gian Maria. Dimmi, Bacchi. Beh, adesso com'è? Infatti, ho acceso l'altro a vedere un po' se la differenza. L'altra parte ti sento più basso, mentre qua invece sono alla parte della strada e ti sento più bene, dai. Ha migliorato o peggiorato? Va bene, sei a fondo scala comunque, Bacchi, La radio non è che porta forte forte, però la radio ha migliorato al 100%, E sono andato sul menù che mai Totore. Siccome ieri non andava, il menù non lo prendeva, perché c'era il pulsantino guasto. Allora cosa ho fatto? Ne ho smontato il frontalino dall'altro che avevo e l'ho messo qua e funziona al 100% il frontalino. Hai visto? Visto là. Inutile, allora prova, se la ciappa dunque. D'accordo, allora si torna a ciambada, me ne vado dentro che ce l'ho su accesa. Qua c'è freddo già. Dai, io ti sento bene qua, Bacchi, anche là ti sento bene, non è forte come qua, ma dall'altra parte sono la parte dietro dove abito io, ecco perché ti sento più basso, capito, Bacchi? Beh, non si può girare il palazzo, Giomari. Dai, va bene, continua, riprendi tu. Ole. Un attimino che sto avvitando una cosa, se no non posso parlare. Aggiusta, poi parla. Luca! Luca ci sta lavando! Non si può portare la radio in bagno. No, la 27 accesa ce l'ha 20. Sì, accesa la 27. Fra poco esci in bicicletta, ma chi? Cos'è Gian Marì? Davvero, fra poco esciamo in bicicletta. Il 3 della Femmaria. Sì, in bicicletta fra poco, tempo bello. E si va in bicicletta. E allora? Dopo viaggio anche la carrozzina, prendiamo a Graziano, scendiamo in carrozzina, lo portiamo a passeggio. Ciao, Graziano con il coso, con il triciclo. Ti va Graziano? A correnti. Graziano, prendi la patente per il triciclo per non uscire il buco. Ah no, peccato cazzo, Eia, vivo un gabinato, vivo. Piazziamo una tenda, ci piazziamo, va bene. Prendiamo due secchi di ferro, gli facciamo una cappotta e li fiancati. Ehi, ma lì non ce l'hai accesa la 27. Com'è? La 27 lì ce l'hai accesa. E ce la fanno i 27, allora è questo è pazzesco. Io quando accendo questo accendo la 27, no? Non è che l'accendo uno solo, no? Io accendo tutte e due. Oh, signor Bacchisio. Sì, a te, dimmi. Ho messo a posto il capo. Anda bene. Il capo di questo qua? Cos'è Bacchi? Il capo di questo qua, come il mio. Quello lì è. Oh, ho messo il capo quello della 27, il capo di alimentazione, che ce l'avevo staccato, ce l'avevo in un altro apparato. Adesso ho attaccato dov'era. Perché il filo non ne hai? No, mi sa che me ne biglia qualche metro, me ne biglia. E quel filo lì mi faccia con gli spinuti e tutto. Espressione di filo già ne ho. Sì, salgo da... A fusare me ne biglio qualche metro, gli ammisivi. Sempre serve, non hai un'idea, serve sempre. Quando è lungo dà fastidio, quando è corto peggio ancora. Infatti, no, ma devo trovare una scatola o in plastica o in lamiera per farmi gli attacchi per... No, ma è meglio che si può... Se in plastica, che manco isolata. Per farmi l'affare metterci l'accendisigari e un altro attacco. Così almeno se ho da attacco tutto lì. Una scatola del coso, una scatola dell'elettricista, di quelle esterne, di quelle stagne. Compri solo la scatola senza il frutto. No, la scatola già ce l'ho forse già ce l'ho una scatola. E rettangolari piccoline. Sì, ci metto un pezzo di cose a sopra. Dagli saginaggio cavato. E poi non so se ci sono anche i tappi. Mi sembra che siano anche i tappi cicchi di quelle scatole. No, i tappi delle cose, quelli degli interruttori stai dicendo tu. Eia, quelle lì. No, non ci sono, i coperchi sono di quelli per gli interruttori e basta. Ma io attacco un'altra cosa, l'attacco. Dove? Eia, bacchi. Aspetta, non va bene perché ci li metti un pezzo di plastica. Ehi, gli busco un pezzo di plastica e gliela faccio precisa. Poi se la vuoi chiudere basta un po' di silicone o un po' di attac. No, ma glielo faccio sopra il tappo. Lo faccio quasi preciso. Nella macchina la c'hai la femmina dell'accendisigari? Sì, la femmina dell'accendisigari ce l'ho. Però è lamiera, non me ne ha fatto nulla se è lamiera. Tanto se dentro la carrozzeria non si vede, c'è solo il bocchettone si vede, no? Sì, quando dentro la carrozzeria si vede il bocchettone solo. È un bozzo vero, un bozzo. Sì, ma e dunque, non c'è bisogno di fare scatoletta. Se tu il maschio gli metti le banane dietro, le usi sia in macchina che a casa. No, ma è cosa che ho in macchina non mi serve, in macchina ne ha giù due d'attacchi. Pensa un poco. Me ne hanno in buscio due, me ne hanno in buscio. Addirittura. No, ma il fatto è che ho lo spinotto anche per accendisigari di questo apparecchio qua. Quindi non ne lo voglio cavare, che quando è il coso lo prendo l'attacco, lo uso in macchina. Uso direttamente lo spinotto. Attacca direttamente. Perché quello della accendisigari non ti funziona. È solo l'uscita 12 volts. Sì, lo uso, io me lo metto dentro una scatola qua e più ci metto un altro attacco anche. Ci metto. Ma la metti la scatola, deve tenere in mezzo ai piedi lì. Solo che mi sa che non ci sta però. Lo devi mettere sotto il sedile. Un attimo. Oh, signor Bacchisio. Eccomi qua. Sì, già ci sta in questa scatoletta qua, già ci sta, sì. Capito, no? È più alta di quell'altra, quindi già ci sta. Sì, ci sta? A voglia. Ah, me la burube, chissà. È tutto canto del vostro Gosinoghi. Allora, risolto il problema. Sì, gli altri sono nella 27. Io andiamo in 27, io se non ci criticano pure. Cosa c'hai? Andiamo in 27, se non ci criticano. Sì, andiamo in 27, è meglio. Cuffo! Dore! Giamari! Che facendo, Giamari? Luca, in PM... 27 siamo. Io sono da solo qua. Siamo sulla 27. Ah, ho capito, 27 siamo, io sono da solo qua. Faccio i carabinieri di Gianni. Ah, sei con Maria solo qua, dai, muto tu. Ciao. Come tu? Ok. No, tu è staccato, dai, no, lo attacco oggi. Tutto staccato, tutto conservato. Domani se ce ne ho voglia, se no altro giorno, dai, va bene. Luca! Che era la pesca! Capo di pirolitico! Ancora viva, sì! Luca! Passa più in bacca! Noi ci oggi in bacca! Ah, ma comunque ha mollato, un bel! Quello sì! Che domani non andrò per pesca, non c'è niente di questo vento! E domani mattina, se non c'è vento, dobbiamo andare a fare asparagi! Quindi brudu, questi sono i vostri vecchi. Okay. Ah, questo pannello fotovoltaico come sta andando? Pannello, ma per la luce di circa. Quello solare, non te lo vuoi chiamare. Domani faccio il buco dalla cassetta principale alla soffitta, da dove entrano poi i due cavi. e poi da lì me ne vado nelle cassette, nelle altre cassette per fare il collegamento dal pannello. Ma non è che brinca tutto in aria, voi da c'è quella casa carbonizzata, no? Illu! No, è tanto, c'è solo quello da fare, e basta, non c'è per altro. È vero. Ma io mi fiderei. Perché sono due impianti completamente divisi, capito? Non è che sono collegati insieme, no? Capito? Uno è 12, l'altro è 220, sono separati, capito? O metto doppi interruttori e basta, niente di più. Tu perché non te lo puoi fare un impianto fotovoltaico per la 220, no? Sì, ci vuole un inverter, ma per fare tutto a 220 e prese comprese non basta quello che ho messo qui, ci vogliono circa altri 3.000 euro, 4.000 euro per fare una cosa del genere. Poi comunque devi sempre rimanere con l'Enel per quanto riguarda le stazioni, se non ti caricano le batterie, tutte quelle robe lì, sempre meglio averle. Ma dico, volendo non lo puoi fare perché non è casa tua. Un bel tetto serve per fare tutto così, ho un bel po' di tetto e batterie eccetera. Ma un bel di tetto, un bel di tette. Vabbè, adesso mi faccio le luci. Le luci? Ah, vabbè, no, prendo un inverter e per esempio mi posso collegare il terrazzo, se devo usare una muletta, se devo usare un trapano, se capito, qualsiasi cosa tramite l'inverter che ti trasforma la 12 in 220, tu dici, capito? Accende una lampadina, puoi fare tutto. Ma sempre usando quel pannello, usi? Sì, sempre dal pannello, dalle batterie. Tramite l'inverter attacchi qualcosa che funziona a 220. Devi calcolarti in base ai watt che consuma l'accessorio che stai utilizzando e devi vedere quanti ampere c'hai, capito? A disposizione. Quanti watt consuma il dispositivo. Volendo poi attaccare anche quelle lampadine che consumano un bel, cioè quelle fanno un bel di luce lo stesso, no? Oppure un faretto, quei faretti a coso, da. Tipo quello che ho a casa che fa un bel di luce, che se ti ricordi che stavate buttando giù da Gio Maria, quello lì, che l'avevo sistemato. Quello consuma un po' di corrente, ma fa un po' di luce. Anche lì, quello lì puoi attaccare, volendo. E cos'è? 100 watt, mi pare. Tanto è buono. E di più? Te l'ho detto, in base ai watt ora di consumo, se è 100 watt ora, devi vedere quanto hai in totale di watt delle batterie, togliendo circa il 20% che si tengono le batterie per la ricarica. Dipende da quanto consuma, è come usare un trapano, una muletta o qualsiasi cosa che tu attacchi, devi sempre valutare il consumo dell'accessorio per le batterie che hai. Sai che quel faro è da 300-400 watt, fa un bel di luce, fa un bel di luce, e non solo, ti fa anche da stufa perché scalda un bel, però non sto scherzando, ti fa anche da stufa. E sarà un alogeno. Quelli di una volta, poi non me lo ricordo però lui, che modello è. Quello grigio è quello grigio, c'ha quelle lampadine lunghe. Ehi, quella lampadina alogene, come c'avevo io nel faretto e poi ho messo il pannellino LED. Quello lì, ma è stato autoscalda, fa un bel di luce lui, un bel. Quello buoni sarà 300, sono 400 buru. Ma ti conviene mettergli un pannellino LED a 220 come ho fatto io, visto in quello nero che ho messo il pannellino LED da 100 watt che fa due di luci e consumano meno. Sì, poi sicuro un dratto, boh. L'ho solo preparato che magari può servire a cosa adesso, qualche lavoro si usa, capito? Ci manca il vetro davanti, bisogna procurare un pezzo di vetro. Ma quello è un vetro temperato, non è un vetro normale, santo scaldare quel vetro, a meno che non metti il il led come quello che ho messo io, luce fredda, allora puoi mettere un vetro qualsiasi dal vetraio, ti puoi tagliare un pezzo di vetro a misura, se no ti costa più il vetro che il faro. Sì, un vetro piccolino è meglio, va. Quelli, anche va bene anche uno di quei vetri per la stufa a pellet. Sono spessi, 4 mm minimo, capito, i vetri lì per alte temperature. Già lo so, l'ha comprato mio fratello per la stufa, gli si è spaccato. Gli hanno chiesto 50 euro, però tramite un collega suo, gli ha fatto pagare allora 44 e mezzo per 28, 35 euro. Vedi. Ma se tu metti quel led, hai risolto il tuo problema, capito? Perché è freddo quando lo tocchi, eccetera, eccetera. Consuma poco e fa tanta luce lo stesso. E ti eviti anche di mettere un vetro così costoso, dai. Quei vetri lì ne acciappi un montinaggio pure. Te lo tagli con taglio al vetro e lo paghi sino a 2,50 euro. Lo so, scalda un bel, sì. Secondo me si spacca se metti un vetro normale. Sì, spacca sì, chissà quanto arriva in temperatura. Già bruciava il mio, ti ricordi? Ed era mi pare 100 watt, ma testo, quello nero. Non quello bianco, pulino, quello è 50 watt, che fa lo stesso di luce comunque. Era sempre a led, a senso pannellino led. Magari me lo faccio va pure in pannellino, tanto vale me lo compro uno, buonanotte, ci sono, questa non è una cazzata. L'hai visto da bricco, a tutto, 4,50 euro, basta. Infatti già ne fanno luce, non consuma nulla, ne manco. No, quelli no, ma non so quanti watt sono, il bricco, quello più piccolino che costa 4,50 euro, ma non so quanta luce faccio. Sono bassi, no? Non credo che facciano molta luce. E ma lo lascio così, non mi interessa. Stavo pensando a mettere il vetrino, solo che ci vuole quello ad alta temperatura. E trovate nei bagagli, cosa sarà? 30 centimetri, 40 centimetri per 20. 40 centimetri sono belli, così manno Sa 30, così 20, non lo so, così a occhio e croce, Enorme, non me lo ricordavo, dove era? Dentro l'altro magazzetto. Ehi, che stavamo buttando, ti ricordi? Io mancavo le lampadine. Ma il signore ce l'aveva dato, lo stava buttando. Stava pure nel magazzino. Che dove c'era pigliato tutta questa roba, non ho capito. Lui. Poi si era preso tutte le canne a pesca. E allora, tutto si ci ha portato. C'è una vita mangiato. Intanto quello lì, se le ha prese le avrà vendute, c'è un po' di valore mi. Anche se non si usano più ormai quei modelli lì, magari trova qualcuno interessato. Per carità, il parito Graziano, Gio Maria, Buttore, Bacchisio, tutti spariti sono. Gio Maria. Come 27 sono. Attento gufo! Luca Valanzolo! Ma cosa non verrà più Manuele la radio? No, ma l'avevo fatto restituire. Era sempre nel paese, la gente mai che ce la vende. questa che sto usando adesso. Poi è arrivato il video. Non so se l'avevo già mandato quello. Turra a due con la compagna? Ma no, tornato no, va ogni tanto, sì. No, non sei tornato. A pettinare delle pecore va ogni tanto. Allora, rivedo il video. Ora ti trovo già mandato questo video. Guardalo. Ciao, buddy! Non mi tocci! Grazie! Ragazzi, si è imparato. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu